un progetto che interroga le parole e le trasformazioni delle parole, lo scarto che si crea tra il valore etimologico di una parola e come la parola stessa poi vive all'interno della società e delle società che attraversa anche nella loro diacronia, con l'intento di interrogare il presente e al possibile anche di perimetrare il futuro o quantomeno di tracciare degli orizzonti per il futuro che ci attende. È chiaro che stiamo vivendo un tempo molto, molto particolare. Le condizioni stesse in cui ci troviamo adesso ci parlano della sospensione del nostro presente, ed è una sospensione che inevitabilmente raffredda l'entusiasmo e la passione con cui normalmente vengono varate progettualità come questa. Altresì, nonostante per l'appunto la condizione ci parli di un tempo che stiamo vivendo, questa condizione ci parla anche della necessità di un progetto come questo. Una necessità che ad un tempo che investe la comunità nel suo complesso, perché credo che mai come il tempo che stiamo vivendo ci spinge con forza a riflettere, a pensare. Credo che le sfide che ci troviamo davanti possano essere positivamente superate soltanto in ragione di un investimento intellettuale e di pensiero profondo. E al tempo stesso, per quella piccola parte di mondo che mi è ci riguarda più da vicino, intendo dire il mondo teatrale, esperienze di questo tipo sono, a mio giudizio, fondamentali per tenere vivo il dialogo di un teatro, che è il luogo da cui ci stiamo parlando in questo momento, mantenere vivo il dialogo, dicevo, tra un teatro e la comunità di riferimento. Si è molto discusso rispetto a cosa significa fare cultura e soprattutto fare teatro in tempo Covid. Come mi è capitato spesso di dire, non credo che lo strumento dell'online possa surrogare l'esperienza teatrale pura, dal momento che l'esperienza teatrale si può realizzare soltanto in presenza. Credo però che si possano dare degli strumenti di approssimazione per tenere vivo un pensiero teatrale. Il fatto che un'esperienza come questa mantenga vivo il dialogo e la relazione con lo spettatore è già di per sé un elemento fondamentale di teatralità che continua ad esistere. E credo sia interessante che tutto ciò parta dalla parola esplorata nella sua valenza più articolata e complessa.